Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Definir material y sonori como un selo discográfico é moi simplista. No espazo de máis de 4 décadas de honrada resistencia cultural no escenario independente italiano, representaron un laboratorio creativo único, unha fábrica de música que actuou como incubadora de moitos artistas e proxectos. Giampiero Bigacci, coa súa dona Francesca e o seu irmán Arlo, Giancarlo Bigacci, nunca perderon a ilusión e a paixón dos comezos, naqueles finais dos anos 70. De feito, sempre relanzaron, experimentaron e continuaron teimudamente a súa andaina dándonos grandes producións discográficas e distribuindo tanta música interesante, mas, sobre todo, asinando numerosas obras orixinais. Neste contexto, encádrase a actividade do músico toscano Arlo Bigacci, baixista e produtor cunha trayectoria artística articulada, capaz de moverse con habilidade por diferentes ámbitos musicais, dando vida a proxectos singulares no seu xénero, como Knife Orchestra, Kudu ou La Banda Improvisa, mas tamén a espectáculos orixinais nos que a música se atopa con outras formas de expresión como as obras multimedia. É o caso de Passione, publicada en 2019, de Arlo Bigacci en colaboración con Stefano Saletti, ou mesmo de Mayakovsky, Il futuro viene dal vecchio, ma il respiro di un ragazzo, de 2020. Unha ambiciosa obra transmedia adicada ao poeta ruso Vladimir Vladimirovich Mayakovsky, na que se cruzan música, poesía e teatro. Off Mental, edición 107. I bambini nascono uguali. I poeti, poi, crescono diversamente. Materiali sonori, seconda parte. Con orecchio insaziabile avvertono il futuro e conoscono prima degli altri la diversità delle cose. Il loro movimento, il corso del loro mutamento, il marcio che si nasconde, il vecchiume che si oppone. Un poeta nasce e cresce nelle contraddizioni del suo tempo, mentre agli altri basta il presente e non guardano mai avanti. Per cui non parleremo della sua adolescenza. Lyudmila, la sorella che frequentava Mosca, gli portava opuscoli di politica e poesie. Ricorda, compagno, ricorda, fratello, più lesto, getta il fucile. Ricorda, compagno, ricorda, fratello, più lesto, getta il fucile. Era una canzonetta, ma gli piacquero quei versi. Rivolta e poesia gli si mischiarono in testa, in quel misto di sentimenti cupi che si ha quando si è ragazzi, però senza i mezzi per farli valere. Orgoglio e ribellione. E lo spirito d'inquieto ribelle iniziò a costruirsi quando il suo amico Isidor, preso dalla gioia, saltò a piedi nudi su di una stufa. In un attentato hanno ucciso il governatore militare di Kutaisi. Ci furono manifestazioni e comizi. Andò anche lui. Per protesta si trovò a cantare la Marsigliese in una chiesa. E gli venne di cantarla storpiandola, come la cantava suo padre, per gioco. Perfino a Baghdad ci furono disordini. Aveva 12 anni. A Mosca fu arrestato in una tipografia clandestina. Aveva con sé opuscoli che inneggiavano alla rivolta. Fu interrogato ripetutamente, posto sotto sorveglianza, pedinato giorno dopo giorno fino alla data del processo. Fu condannato. Colpevole del reato ascritto, commesso in piena facoltà mentale. Aveva 15 anni. Fu arrestato una seconda volta. Atto d'accusa, rivolta violenta indirizzata a far cadere il governo. Poi per una terza volta. Sospettato di aver partecipato all'evasione di 30 prigioniere politiche dal carcere femminile di Novinsk. Fu condannato e condotto nel carcere di Basmannaya. Faceva domanda agli uffici della polizia politica di poter avere il necessario per disegnare. Le guardie di custodia delle prigioni facevano domanda perché il detenuto fosse trasferito in un'altra prigione. In libertà, ma prima della scarcerazione gli tolsero il quaderno dove aveva iniziato a scrivere versi. Ne uscì confuso, straniato, ma consapevole di cos'è il pensiero e di come un uomo può rispondere delle proprie convinzioni. La sua vocazione di poeta cominciava con l'angoscia, ma senza rassegnazione, cosciente che ci vogliono gli eccessi per riuscire a cambiare le cose. E non è neppure possibile emanciparsi senza sbattere le porte. Aveva 17 anni. Ai giovani una gran massa di compiti. Si insegna la grammatica scemi di ambo i sessi. A me, invece, m'hanno sbattuto fuori dalla quinta classe. Hanno iniziato a sballottarmi nelle prigioni di Mosca. Nel vostro piccolo mondo di appartamenti si coltivano ricciute liriche per camere da letto. Ma che vuoi trovarci in queste liriche da barboncini? A me, ecco, ad amare, l'hanno insegnato nelle carceri di Butyrki. Ma quale nostalgia del Bois de Boulogne! Ma quale rimpianto di panorami sul mare! Io, ecco, mi innamorai dell'impresa pompe funebri, dallo spioncino della cella 103. Chi vede ogni giorno il sole si monta la testa. Cosa varranno mai, dicono, quei miseri raggi? Ma io, per un riverbero giallo sul muro, avrei dato allora qualsiasi cosa al mondo. Ascoltavamos I bambini nascono uguali e I Giovanni. Os nenos nacen iguais e a mocidade. Quinto e sexto corte da obra Mayakovsky, dun total de 18 cortes dentro desta obra conceptual da que escoitaremos hoxe unha selección. Mayakovsky, Il futuro viene dal vecchio, ma Il respiro dun ragazzo, foi publicada o 25 de outubro de 2020 co motivo do aniversario da Revolución de Outubro. O proxecto é o resultado dunha longa xestación que viu a Arlo Bigacci comprometido na elaboración das músicas que acompañarían as letras traducidas do ruso pola actriz Chiara Capelli e interpretadas por ela mesma. Leggeva libri e osservava I panini che risplendevano dalle vetrine delle trattorie. Aveva già vissuto molto e sofferto molto per il mal di denti. Aveva persino realizzato una collezione di disegni che rappresentavano una giraffa nero dorata. Era lui stesso, sempre disegnata con la testa fasciata. Per cui non parleremo della sua consapevolezza. Si fece nuovi amici e con loro parlava di quadri, di parole, di lettere confuse tra I colori. I versi non li aveva ancora scritti, ma mulinavano in testa. Leggeva, camminava per strada e parlava con tutti. Vetturini, calzolai, fornai, tipografi, con I passanti e I compagni di scuola. Viveva. Conobbe David Burliuk, poeta e pittore dall'aria da fanatico, con la redingote, l'occhialino, un antipatico. Volodia era scompigliato, sporco, attaccabriche e stravagante. Un giovane strafottente dall'aspetto di ironico apache. Quello spilungone mi tormentava continuamente con I suoi scherzi, anche troppo spiritosi per I miei gusti. Un figlio della natura, un selvaggio autodidatta e un entusiasta. Non ci sopportavamo. Avrei potuto anche picchiarlo. Una sera I due si ritrovarono davanti all'ingresso del circolo dei nobili. Se ne erano fuggiti a metà dell'isola dei morti di Rachmaninov. Una noia mortale. Si guardarono in faccia, si misero a ridere. Passeggiarono e parlarono a lungo. Della noia del noioso concerto, della noia della noiosa scuola d'arte e della noia del classicismo e di ogni altra cosa legata all'indolenza del passato. Fu una discussione irrefrenabile. Si convinsero che avrebbero dato vita a un'arte nuova, che fosse espressione del presente, ma piena di futuro. Divennero amici, inseguendo un'utopia. Dozia, con la collera del maestro che ha superato I contemporanei. Volodia, con il pathos del sovversivo e la certezza dell'inevitabile crollo del vecchiume. Una notte, passeggiando per Bulvar Sretensky, Vladimir gli recitò dei versi. Sai, li ha scritti un mio conoscente. Ma se li hai scritti tu, Volodia, non aver paura, scrivi. Non li pubblicò mai, quei versi. Ma scrivere lo rendeva consapevole. A 20 anni, d'altra parte, si ha fame di consapevolezza. Respinto e sgualcito, il porpora e il bianco scagliavano sul verde ducati a manciate, e ai palmi neri da corse e finestre distribuivano gialle carte fiammanti. Sorpresi non erano i viali e la piazza nel vedere toghe blu sugli edifici, dinanzi a chi va fugando come gialle ferite. Le luci fidanzavano con bracciali ai piedi. La folla, gatta lesta d'immacolato pelo, nuotava inarcandosi sedotta dalle porte. Ciascuno voleva trascinare almeno per un po' la mole del ridere disciolto in un grumo. Io, sentendo le zampe di un vestito chiamarmi, insinuai un sorriso nei loro occhi, spaventando con colpi sulla miera sghignazzavano i mori, con sopra la fronte un'ala di pappagallo. Dipinta. Leggeva libri e la notte, leu libros e a noite, que se corresponden cos cortes 9 e 10 da obra Mayakovsky, publicada en 2020 por Materiali Sonori, a que lle estamos adicando esta segunda metade do especial dedicada ao selo italiano. A contribución dos distintos instrumentistas que se sumaron a Arlo Bigacci, que interpreta aquí o baixo acústico, eléctrico e programación, foi importante na definición do son e arranxos. Aquí están, por tanto, Lorenzo Mouca Tomasini aos teclados, que ademais coproduciu o disco, Mirio Cosotini a trompeta e fiscornio, e Francesco Cumusano a guitarra. Como convidados, Mirko Guerini ao saxo, Michel Marini ao saxo alto, Guido Guglielminetti ao baixo sen trastes, Marco Furelli a guitarra, Maximiliano Liberani ao theremin e Blaine Reininger ao violín. Continuò a scrivere Vladimir Vladimirovich, come un pittore che colora il mondo usando le parole come i pennelli. E come un pittore amava il colore per quello che è, non ammetteva arte inutile, doveva essere testimone dello spirito dell'epoca, e i classici dovevano essere trattati con una discreta arroganza. Non vengano con il loro enorme deretano di bronzo a sbarrare la strada ai giovani poeti che oggi si aprono un varco. Aveva il suo punto di vista sull'universo, una carta schematica del mondo, un piano generale della storia. Non aveva l'esperienza, ma si sentiva responsabile del mondo e la parola gli era necessaria. Il non viene certo dal vecchio, ma il respiro di un ragazzo. E lui era un ragazzo, con una camicia di velluto nero, le mani grosse, così alto che in strada si voltavano a guardarlo, e quando era seduto veniva voglia di dirgli: «Si accomodi, prego». Appariva con la sua giacca gialla, teneva conferenze, letture. Parlava di gatti neri e asciutti che si possono accarezzare e producono elettricità. Odio i regolamenti, specie in arte. Sento il pubblico, vado a soggetto e magari invento un nuovo ritmo lì per lì. La sua non era una poesia da camera, non era un artista da alcova. L'arte doveva sporcarsi le mani nel mondo, nelle strade, nelle piazze e con la vita. Non solo perché è lì che prende, ma perché è lì che è diretta e lì deve essere utile. Sapeva anche che il rinnovamento non poteva essere un semplice colpo di spugna, e per questo lavorava senza interruzione, per strada, nei ristoranti, mentre giocava a biliardo o a carte. Eppure amava il silenzio. Continuo a scrivere. Corte número 11 deste traballo conceptual, onde as verbas e a música fluen nunha persecución continua para contar a un Mayakovsky aparentemente menos político, pero máis universal. Un mozo namorado da vida, da arte, da utopía. Certamente non o Mayakovsky ao que estamos afeitos, icona embalsamada da Revolución Soviética, senón a historia e a poesía dun rapaz apaixoado polos acontecementos da existencia. Unha narración, unhas veces íntima e lixeira, outras tensa e conmovedora, que non fai distinción entre biografía e poesía, contando a un Mayakovsky disposto a desafiarse a sí propio e ao mundo que o rodea. É a historia dun neno rachador coa banalidade e un himno a esa rebeldía propia da mocidade. Un lóstrego chispeante que bate en algures e que ilumina a palidez dos nosos días, onde cada vez é máis difícil atopar o entusiasmo por unha mirada cara ao futuro e a utopía. Vladimir Vladimirovich evitarono di arruolarlo. Era pur sempre un sovversivo. Continuò a far conoscere le sue poesie, anche se criticato, tartassato, non compreso. Continuò a recitare poesie e diede le sue buone spallate. Non a caso da ragazzo aveva preso lezioni di pugilato. Scarso nel gioco di gambe, ma pugni micidiali. Così sosteneva l'allenatore. Si mise a giocare d'ironia, quindi. Portava il cilindro e con i primi soldi comprò una bellissima sciarpa arancione. Si mise anche una seconda giacca, a righe gialle e nere. I colori che gli ricordavano Baghdati. E la giraffa. Accompagnata da una lettera, mandava una sua foto a riviste e giornali. Gentili signore, egregi signori, sono sfacciato. Il cui piacere più grande è di rompere, sfoggiando una blusa gialla, in mezzo a una colta di persone che custodiscono nobilmente, sotto compassate redingote, frache doppio petto, la modestia e il decoro. Sono cinico. Basta una sola mia occhiata per lasciare su un vestito durevoli macchie d'unto della grandezza approssimativa di un piatto da dessert. Sono un carrettiere che appena fosse lasciato entrare in un salotto tappezzerebbe l'aria come un'ascia pesante delle parole proprie a questa professione, poco consona alla dialettica salottiera. Sono un esibizionista che sfoglia ogni giorno febbrilmente tutti i giornali, pieno di speranza di vedervi il proprio nome. Fu anche pubblicata su una rivista, questa lettera, accanto a una foto dove aveva un berretto a visiera. Aggiunsero che si trattava di un giovanotto poco degno di attenzione, di un dilettante. Ma lui continuò. Continuò come una rompighiaccio nella banchisa, continuò a farsi largo e apriva un varco verso il nuovo. Di colpo macchiai la mappa del mio quotidiano, ci versai del colore da un bicchiere. Sopra un piatto di gelatina mostrai gli zigomi spilenchi dell'oceano. La scaglia di un pesce di latta conobbi il richiamo di nuove labbra. Suonare un notturno su di un flauto di gronde. Ma voi, voi sì, sareste capaci di suonare un notturno. Amo molto Vladimir Vladimirovich. Con spasmi, convulsioni, singhiozzi. strozzi da pazzo, da ubriaco. Amò dai tetti rabbiosi, dai boulevard di prostitute, tra i miraggi e i deliri della città. Fu illusionista e visionario, un commediante di focosità e follia. E cercava l'amore, un amore che non si può sfogare, né bevendo, né mangiando, né scrivendo poesie. E collegava il destino del mondo con la lotta per questa unica felicità. Pose un ponte verso il futuro e lì ristette: occorre la felicità, in questa terra, in questo momento, qui e ora. Un'affermazione e una consapevolezza immediata della propria esistenza. E verso questa felicità camminò attraversando la rivoluzione. Per cui non parleremo né dei suoi amori, né delle sue donne. Escuchamos La blusa ghiaccia, La blusa amarela, Ma voi, pero ti, e Amo molto, Amava molto. Mirio Cosittini, trompeta, Michel Marini, saxo alto, Francesco Frank Cusumano, guitarra, Lorenzo Tomasini, teclados, Arlo Bigazzi, música, contrabaixo e producción, e Chiara Capelli, traducción e recitación. Chiara Capelli interpreta os poemas de Mayakovsky intercalándoos con momentos da vida do mozo poeta, acompañados de ritmos urbanos e melodías sintéticas. Unha interpretación que implica o corpo na súa máxima expresión, dando forma ao fluxo da voz e dos sons. O monólogo suspendido entre as verbas, a música, é unha reinterpretación bastante insólita, tanto na forma, que por momentos se desprende da representación teatral para mergullarse na atmósfera do concerto, como nos contidos, evolucionou posteriormente nun proxecto transmedia do que falaremos. Antes imos con este epílogo. Vladimir Vladimirovich fu compagno di viaggio e sollecitatore di idee. Questa fu la sua lezione. Se stava su una sedia, che stesse giocando a carte o addentasse un pezzo di carne, sembrava fosse seduto sul sellino di una moto. Sporgeva il corpo in avanti, guardava di sbieco e non muoveva la testa. Provocava, convinceva, metteva a disagio. Con una voce strascicata e sorda e un pugno da pugile, micidiale nella sua vivacità, una via di mezzo tra un eroe di Jack London e un torero spagnolo. Dall'alto del suo 1,90 m poteva dire tutto, inesorabilmente e una volta per sempre. Scagliava le cose in faccia alla società e anche molto più lontano. Maturava, cresceva, si accigliava. E nel fondo di tutto questo, quella infinita rincorsa che lo avrebbe fatto apparire immenso e fragile. Dietro la molla della sua arroganza, una timidezza inconcepibile. Dietro la sua energia, che gli aveva permesso di superare ostacoli insormontabili. Per chiunque altro, le sue contraddizioni e le sue speranze non era di ferro per niente. Per questo era un poeta. Era facile identificare il concetto di vita con quella figura imponente e forte. Anche se un po' goffa nella sua potenza, ma lesta e sicura come lo slancio che i suoi scritti scagliavano contro il pensiero dei luoghi comuni. Contro coloro che si incamminano sulle rassicuranti e piacevoli variazioni delle mode. Contro l'atteggiamento del tirare a campare di tutti noi. Contro il rimanere ancorati al conosciuto, alle nostre piccole certezze. Contro le speranze, i sogni che ci lasciamo spegnere. Contro una vita messa a disposizione di chi non lascia far niente. Contro l'energia vitale di una gioventù che si lascia implodere. Cancellare l'ovvio. Rompere, frantumare, via, via. Cercare nuove strade. Cassare gli inutili legacci del passato. E la noia sonnolenta del banale. Via, via. Sognare e rincorrere un'utopia. Questo è ciò che ci ha lasciato. Vladimir Vladimirovich rideva, si arrabbiava, sbraitava, ascoltava. Amava l'arte, il lavoro, le donne. Amava il gioco, d'azzardo, i suoi compagni. Amava l'aria che respirava. Viveva. Una sigaretta, eternamente non finita, appoggiata all'angolo della bocca. E una qualche noncuranza esibita. Tutto ciò non merita una particolare attenzione. Non parleremo della sua morte. No, no, no, no, no. No, no. Non mi fermerete. Non mi fermerete. Che io sbagli o abbia ragione. Non potrei essere più calmo. Guardate, hanno nuovamente decapitato le stelle e insanguinato il cielo come un mattatoio. Ehi voi! Cielo! Toglietevi il cappello! Me ne vado. Non sente. L'universo dorme, poggiando sulla zampa l'enorme orecchio stellato di zecche. Epílogo, corte 18 e último de este trabajo conceptual, asignado por Arlo Pigazzi, música, producción e Chiara Cappelli, recitado e traducción dos textos do poeta Mayakovsky, con todas esas colaboracións das que deixamos aquí constancia, tan importantes nos arranxos musicais e instrumentais, e que conforman ese CD número 1 do que escoitamos aquí a metade das pezas. Así que xa sabedes, esculcade e, sobre todo, mercade este traballo, porque a verdade é que é precioso na súa concepción. Procuradeo e mirade, ollade a transversalidade de todo o proxecto, que é algo moi importante do que imos falar a continuación. Como surdiron diversas iniciativas a raíz desto que se completan unhas a outras de maneira increíble. Off mental. A cara B da música. O segundo dos discos deste traballo dobre recolle as versións instrumentais de moitas das pezas que vimos de ouvir e algunhas outras novas. Nelas aprecia moito mellor a participación creativa de todos os convidados e, claro, a capacidade do músico toscano Arlo Bigacci para facer dialogar eses diferentes sons e estruturas musicais que van aparecendo. As nubes e o vento, a peza que abre esta versión instrumental do traballo Mayakovsky, Il futuro viene dal vecchio, ma il respiro di un ragazzo. Imos ir ás claves deste traballo instrumental donde se aprecia esa creatividade, por exemplo, nesta Ma voi, pero ti. Thank you. Yeah. Escoitábamos Mavoi pero ti, y aquí estaba Mirio Cosottini, a trompeta, Michel Marini, saxo alto, Francesco Cusumano, a guitarra, Lorenzo Tomassini, os teclados, o propio Arlo Bigacci, o baixo, e as voces por aí, pululando, como si non for con ela, de Chiara Capelli. Falábamos desa característica transmedia deste proxecto dedicado ao poeta ruso-soviético Mayakovsky. E é que este proxecto evolucionou posteriormente en diversas cuestións. En primeiro lugar, en eses vídeos que hai na rede que ben podedes vos procurar e que completan a parte audiovisual do proxecto. Por outra banda, hai un libro publicado por Editrice Chona que, ademais do guión e cinco poemas non incluídos na mostra, engade dúas novelas gráficas das que posteriormente, ademais, se editaron láminas artísticas. E, por si isto non for pouco, no ano 2022, en abril deste ano que está a piques de findar, o selo italiano 13 Silentes publicou un libro con imaxes da fotógrafa Lucia Baldini e un CD con pezas musicais de Arlo Bigacci en colaboración con Flavio Ferri. Estamos a falar de Alfabetieri Mayakovsky. La ayuda, extraído de Alfabetieri Mayakovsky, publicado en 2022. Un dos efectos colaterais de todo ese proxecto transmedia adicado ao poeta ruso-soviético Mayakovsky. Regresamos ao ano 2020, exactamente un 22 de decembro, donde en streaming nas redes sociais máis populares emitiuse desde o Museo Venturino Venturi o concerto de lectura I Sing the Electric Body and Embrace Those I Love. Canto o corpo eléctrico e abrazo os que amo. De Arlo Bigacci e Chiara Capelli, con música en directo e textos dos poetas Venturino Venturi, Dino Campana, Arlo Bigacci, Vladimir Vladimirovich Mayakovsky e Walt Whitman. Canto il corpo elettrico. Le schiere di coloro che amo mi abbracciano e io le abbraccio. Non mi lasceranno andare fin quando non sia andato con loro, non gli abbia risposto e li abbia discorrotti e riempiti col pieno carico dell'anima. È stato messo in dubbio se quelli che corrompono il proprio corpo nascondano se stessi e se coloro che profanano i vivi siano malvagi quanto quelli che profanano i morti e se il corpo non opera appieno quanto l'anima. E se il corpo non fosse l'anima, che cos'è l'anima? Elettrico. Le schiere di coloro che amo mi abbracciano e io le abbraccio. Pues así sonaba en vivo y en directo, en streaming, y así quedó registrado un 22 de diciembre del año 2020 esta pieza que daba título a este trabajo de 8 piezas. Yo canto el cuerpo eléctrico y abracho que li te amo. La última de las piezas está dedicada precisamente al poeta que da nombre al teatro donde se grabó todo esto, Venturino Venturi. Voglio esculpir un fiume, quiero esculpir un río. Y atención, porque Chiara Capelli en esta ocasión canta. Voglio scolpire un fiume e andar controcorrente, leggero più di un legno appeso a un filo, come un burattino, balzare al mare su fino alla fonte. Da cento stelle cogliere il turchino per disegnare il cielo più sereno e grande come gli occhi di un bambino. Vorrei dire grazie a te, materno padre, per questo grande dono che è la nostra vita. Tanto attesa per una donna, un uomo e un figlio, tanti fratelli uniti al sogno di un solo abbraccio, un bacio che si espande all'infinito. Lorenzo Boscucci, sintetizador, electrónica, Mirio Cosottini, trompeta, fiscornio, flauta tenor, Lorenzo Tomasini, teclados, electrónica, Arlo Bigacci e claro, como non, Chiara Capelli. Neste caso, interpretación cantada dun poema de Venturino Venturi, Voglio scolpire un fiume, quero esculpir un río. O vindeiro programa xa faremos o último dos especiais dedicados a este estupendísimo selo Materiali Sonori. Marchamos con esta curiosidade e a versión para este traballo, Lo canto il corpo eléctrico e abraccio quelli che amo, de 2020, en directo, da peza Poeti Stinti, que xa ouvimos aquí, pero neste caso, cor citado do poema homónimo de Paul Whitman na voz de Chiara Capelli. Grazas pola vosa atención, até o vindeiro programa. filosofi, preti, martiri, artisti, inventori, governi d'un tempo passato, plasmatori di lingue su altre rive, nazioni, una volta potenti, ora svilite, ripiegate o desolate. Io non oso procedere finché non abbia rispettosamente riconosciuto quanto avete lasciato disseminato quaggiù. Io l'ho esaminato. È proprio ammirevole, essendoci passato un po' in mezzo. Penso che nulla potrà mai essere più grande. Nulla potrà mai meritare più di quanto meriti. Contemplandolo attentamente, a lungo, poi lo congedo. Io sto al mio posto, con i miei propri giorni. Qui. Qui, terre femminili e maschie. Qui, gli eredi e ereditiere del mondo. Qui, la fiamma della materia. Qui, spiritualità, la mediatrice, l'apertamente manifesta, la sempre protesa. L'esito delle forme visibili, la pagatrice, dopo l'adeguata lunga attesa, ora avanza. Sì, ecco che arriva la mia signora. L'anima. Foi Off Mental, a cara B da música.